il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Ogni anno l'ARGAV, l'Associazione Regionale del Veneto degli giornalisti agroambientali, agricoli e ambientali, premia un'esperienza di particolare interesse nella nostra regione. Quest'anno il premio ARGAV 2014 è assegnato ad Agrimea, una cooperativa agricola e sociale dell'Alta Valle del Chiampo. Ecco, una cooperativa appunto dell'agricoltura sociale, quindi parliamo di agricoltura che non è solo agricoltura, ma un'agricoltura che punta a valorizzare sia il territorio, quindi sociale in senso ampio, ma anche poi attività in particolare con persone cosiddette svantaggiate. Vorremmo saperne qualcosa di più e quindi abbiamo ospite oggi Alessandro Mecenero, vicepresidente appunto della cooperativa Agrimea. Benvenuto Alessandro. Buongiorno. Buongiorno. Volevamo capire che cos'è intanto Agrimea e in che senso possiamo parlare di agricoltura sociale per questa cooperativa. Agrimea è una cooperativa sociale di tipo B, nata qualche anno fa a Crespadoro, in provincia di Vicenza. È nata per il fatto che nel nostro territorio è stato dato vita ad un centro per ragazzi, per adolescenti autistici o con gravi disturbi di comportamento. Si voleva affiancare una cooperativa sociale agricola per dar loro la possibilità di essere impiegati in qualche modo, oppure che imparassero a stare con gli operatori in campo agricolo per dare uno sgravio alle famiglie, per così dire. La nostra cooperativa, essendo una cooperativa sociale ma di tipo B, ha bisogno di automantenersi, cioè di avere un bilancio in positivo fatto con le proprie forze, quindi da un bisogno di produrre qualcosa che ci dia un minimo di reddito per pagare i nostri dipendenti. Per questo motivo la cooperativa ha cercato di mettere in piedi delle attività, e tra queste l'allevamento di maiali di tipo mora romagnola, che è un po' una novità per la nostra zona. E poi abbiamo voluto dedicarci a colture che permettessero un po' il recupero dell'agricoltura nel nostro territorio. Il nostro territorio ha sfamato un'intera popolazione. Un territorio che è un po' montano anche. Sì, è un territorio montano. Fa parte dei territori dei cimbri, i cosiddetti cimbri. Sono popolazione bavarese scesa dalla Germania intorno al 1100-1200. Negli ultimi anni l'agricoltura si è completamente o quasi completamente persa per l'industrializzazione e per la scarsa resa di questi terreni. Per questo motivo stiamo cercando qualcosa di innovativo che possa permettere, magari attraverso prodotti di nicchia, un reddito e quindi una sostenibilità di questo tipo di agricoltura, anche per dare un nuovo senso, un nuovo sviluppo all'agricoltura montana. Ecco, voi vedo che coltivate soprattutto piante officinali, quindi melissa. Abbiamo un progetto di piante di erbe officinali nel sostegno della locale comunità montana della mia campo. Siamo in collegamento riguardo a questo con l'erbecedario di Sprea di Badia Calavena, il veronese, che è abbastanza rinomato soprattutto nel veronese, ma non solo, per quel che riguarda le erbe officinali. Quali erbe riuscite a coltivare? Coltiviamo menta, timo, melissa, lavanda e altre erbe in base alla richiesta che ci viene fatta. Una richiesta particolare che ci è stata fatta l'anno scorso è la foglia di carciofo, sempre per l'estrazione di oli essenziali. In maniera assolutamente casuale, nello stesso periodo stavamo pensando alla coltivazione del carciofo, perché abbiamo conosciuto un tecnico friulano che è in grado di sostenerci da un punto di vista tecnico, appunto, di seguirci da un punto di vista tecnico, e ci ha proposto delle colture, tra virgolette, innovative nel senso nuove per il nostro territorio, ma che diano appunto un prodotto di nicchia che ci possa essere utile. Uno di questi è stato proprio il carciofo. Il carciofo quindi nostro... in zona montana praticamente. In zona montana. Il vantaggio di questo carciofo è il fatto che pur essendo qualitativamente analogo a quello pugliese, per dire, e come caratteristiche è praticamente lo stesso carciofo, viene in produzione molto molto prima rispetto alla Puglia per differenze climatiche sostanzialmente e anche per l'altitudine alla quale noi coltiviamo al di sopra degli 800 metri. Ecco, come si chiamerà questo carciofo? È già in produzione? Il carciofo di Marana. Di Marana. Il carciofo di Marana che non è più in produzione, nel senso che la nostra produzione si limita ad agosto e settembre, quindi con molto anticipo rispetto a quello pugliese, e al di fuori, assolutamente fuori stagione. Questo è il vantaggio, diciamo, perché il carciofo non ha caratteristiche diverse dall'altro, ma lo si può trovare in una stagione nella quale l'altro assolutamente non è presente sul mercato. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Winds will come and winds will go, and the seasons always change. But the light that shimmers in her eyes stays the same. Yeah, the sun will shine and the moon will glow, and the world will always turn. There's a constant fire inside of her that always burns. She knows me, every corner of my soul. She knows me, the way I come, the way I go. She told me, there's nothing I can show. She don't know about me. Round and round and round we go, neither here or neither there. All I know without her, shimmers in her eyes stays the same. Nothing left to say, she holds me. Time just flies away, it's being with her so easy. Oh, she knows me, every corner of my soul. She knows me, the way I come, the way I go. She told me, there's nothing I can show. She don't know. Yeah. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Stiamo parlando oggi di agricoltura sociale e in particolar modo stiamo parlando della cooperativa Agrimea di Crespadoro nell'Alta Valle del Chiampo e con il vicepresidente Alessandro Mecenero. Questa cooperativa, abbiamo detto, di questa attività agricola e però anche del risvolto sociale sia verso la popolazione che verso questi persone, questi ragazzi svantaggiati. Che cos'è esattamente che fanno? In che senso, come riescono ad aiutare nei lavori pratici, appunto, che sono da fare? I ragazzi vengono spiegati in base alle loro capacità, naturalmente. Quindi, per quel che riguarda la coltivazione del carciofo, hanno dato una mano, una piccola mano nella preparazione del terreno, hanno dato una mano nella sistemazione dei telli per la pacciamatura. Qualcuno è stato coinvolto anche nella piantumazione, limitatamente ovviamente alle capacità di ciascuno. C'è chi riesce a fare decisamente di più, chi per adesso ha fatto poco più che guardare. Gli operatori che abbiamo assunto sono persone molto capaci in questo senso, capaci di coinvolgere i ragazzi, capaci di farli sentire in un ambiente sereno e tranquillo nel quale possono fare senza paura e senza stress, diciamo. Qual è il vantaggio di inserire queste persone all'interno di un'attività agricola invece che altre, magari, non so, possono essere industriali? Per quel che riguarda la produzione, ben poco, perché possono fare non è granché. Anzi, forse spesso rallentano il lavoro. No, pensavo il vantaggio per loro, diciamo. Il vantaggio per loro è assolutamente quello di crescere dal punto di vista della persona con esperienze nuove, ma soprattutto il fatto di imparare a stare assieme ad un operatore, imparare a stare in un ambiente diverso da quello che è quello familiare o quello di un istituto, e quindi in questo senso poter aspirare in giro di qualche anno ad avere un po' di autonomia e quindi poter essere tirati fuori dalla famiglia, dare un vantaggio in questo senso alla famiglia per qualche ora mentre sono al lavoro in un'altra cooperativa. Ecco, per quanto riguarda il territorio invece, la vostra esperienza è interessante sia come esperienza sociale ma anche per i prodotti, quindi per il fatto che state cercando di promuovere una nuova tipo di agricoltura. Che tipo di rapporto c'è rispetto a chi già fa attività anche agricola nel territorio? Come guardano a voi, diciamo, alla vostra esperienza? Guardano noi con interesse e curiosità, e per adesso stanno a guardare. Non ci sono aziende che producano prodotti di coltivazione, diciamo, in quantità per la quale ci siano problemi di concorrenza o altro. Sono invece molto interessati al fatto che i nostri prodotti sono nuovi e al fatto che noi abbiamo ufficialmente annunciato che non vogliamo essere i monopolisti di questi prodotti, ma anzi stiamo sperimentando dei prodotti che poi potrebbero essere coltivati da altri, anche per avere una produzione adeguata a far fronte alle eventuali richieste, una produzione adeguata per creare un mercato sempre di nicchia, ma un mercato che possa essere sostenuto poi dalla coltivazione. Ecco, attualmente il carciofo di Marana si trova solo dalle vostre parti, non è in distribuzione? Per adesso sì, anche se l'abbiamo venduto, naturalmente a fine settembre, prima settimana di ottobre abbiamo finito, però l'abbiamo distribuito attraverso dei gas anche in altre zone, anche in Lombardia, e un po' anche in altre province del Veneto. Gas, ovviamente, gruppi di acquisto solidale. Gruppi di acquisto solidale, certo. Bene, grazie. Sono abbastanza vicini a noi. Grazie a voi. E ricordiamo che appunto la cooperativa agricola e sociale Agrimea ha ottenuto quest'anno il premio Argav, quindi dei giornalisti agricoli e ambientali del Veneto, che verrà consegnato il prossimo sabato 13 dicembre. Passiamo adesso ad alcune brevi notizie. Presso il municipio di Quarto d'Altino l'11 e il 15 dicembre si tengono 3 incontri pubblici dedicati al risparmio energetico nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Alter Energy. Giovedì 11 alle ore 17.30 si parlerà di normativa sul risparmio energetico e finanziamento energetico per le amministrazioni comunali. Alla sera dello stesso giorno di giovedì 11 alle 20.30 l'argomento è l'efficienza energetica nelle abitazioni e nelle aziende. Lunedì 11 infine alle ore 20.30 verrà spiegato come leggere una bolletta energetica. La Commissione europea ripropone anche per il 2015 il premio Natura 2000 per riconoscere l'eccellenza nelle migliori pratiche di conservazione del patrimonio naturale in Europa. Ci sono 5 diverse categorie: conservazione, benefici socio-economici, comunicazione, riconciliazione degli interessi, networking e cooperazione transfrontaliera. La presentazione delle candidature deve avvenire online entro il 21 gennaio 2015. Per le informazioni si può cercare sul sito internet dell'Unione Europea. Infine, curiosità natalizia, arriva dal Polesine quest'anno e non dalla montagna l'albero di Natale del Consiglio della Regione del Veneto a Venezia. È stato consegnato lo scorso fine settimana a Palazzo Ferrofini dalla Vivai de Sero di Villadose, appunto in provincia di Rovigo, a nome della Coldiretti Rovigo. Si tratta di un abete normandiana di 3 metri di altezza, nato e cresciuto a Villadose. Una curiosità nella curiosità è che quest'anno la regione ha chiesto un abete un po' più basso, 3 metri invece dei consueti 3 metri e mezzo. E questo in linea con la tendenza italiana, perché, complice forse la crisi, secondo Coldiretti gli alberi di Natale italiani risultano essersi accorciati in media di quasi mezzo metro. Oggi la maggioranza degli abeti acquistati dalle famiglie ha un'altezza inferiore al metro e mezzo. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.